Allora, eccoci qua, buonasera a tutti, io mi presento, sono Patrick Urlu, lavoro come bibliotecario alla Biblioteca Claudio Augusta, che insieme al professor Pompiere ha organizzato questa presentazione del libro. Siamo molto contenti e onorati di avere qui questa sera il professor Pupo, che ringrazio a nome della biblioteca, a nome anche della direttrice, la dottoressa Trevisan, che questa sera purtroppo ha una riunione in ripartizione e non può essere qui con noi. Io vi ringrazio di essere venuti a questo ultimo appuntamento prima delle festività, diciamo, pasquali, e vi ricordo che ci prendiamo una settimana di pausa nelle nostre conferenze, siamo anche noi, diciamo, in vacanza, e riprendiamo il 29 di aprile, che è un lunedì. Ci ritroveremo con chi ha voglia, sempre qui in sala B1 alle ore 18, con una conferenza interessante con il sociologo Adel Jabbar, che molti di voi conoscono perché un amico della biblioteca ha organizzato molte presentazioni qui con noi, e quindi chi fosse interessato a questa conferenza Orienti in Occidente può venire qui sempre in sala B1 alle ore 18, lunedì 29 aprile. L'ultima informazione di servizio che volevo darvi, chi fosse interessato poi all'acquisto del libro che invece presentiamo questa sera, quindi il libro del professor Pupo, può acquistarlo, in fondo alla sala c'è la libreria Europa, che ringrazio, non vedo da qui ma è lì dietro, quindi potete rivolgervi poi alla libreria Europa per l'acquisto. Chi invece volesse prendere il libro in prestito, noi lo abbiamo in biblioteca, quindi per chi fosse curioso può prenderlo anche in prestito. Io lascio subito la parola al professor Di Michele, che ringrazio ancora, al professor Pupo, vi auguro una buona serata e buone feste, visto che andiamo alla Pasqua, via le porte. Grazie e ancora una buona serata. Bene, questo funziona. Sì. Sì. Grazie. Bene, un cordiale saluto anche da parte mia, e io inizierei prima di tutto presentando l'autore, Raul Pupo, che insegna storia contemporanea al Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università di Trieste. Si occupa in primo luogo delle vicende storiche che hanno segnato il confine orientale nel corso del Novecento. E è stato membro dal 96 delle commissioni miste storico-culturale italo-croata e italo-slovena, ha scritto numerosi lavori sulla politica estera italiana a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, sulla questione delle foibe, dell'esodo istriano, ma anche sulle occupazioni italiane nei Balcani e sugli spostamenti forzati di popolazioni in Europa nel Novecento. Alcuni dei suoi titoli pubblicati negli ultimi 10 anni circa sono Il lungo esodo, Il confine scomparso, Trieste 45, e ha curato La vittoria senza pace, le occupazioni militari italiane alla fine della Grande Guerra, e oggi questo libro Fiume, città, passione. E possiamo dire che è ormai un habitué, diciamo così, qui a Bolzano, dove è intervenuto in numerose occasioni a presentare libri, alcuni dei suoi libri e anche i lavori di altri che abbiamo fatto poi in collaborazione tra storici, storiche, tra Bolzano, Trento e Trieste. E è anche un amico che ci piace invitare qui spesso a Bolzano a parlare appunto dei temi di cui è specialista, e cioè di quel pezzo di Europa che dal nostro punto di vista noi italiani chiamiamo il confine orientale, e che ha avuto diverse denominazioni nel corso della storia: la Venezia Giulia, il litorale austriaco, vabbè, Dalmazia, Istria, eccetera. Ed è un pezzo di mondo, diciamo così, di Europa che ci interessa particolarmente perché ha degli innegabili punti di contatto con il nostro. Stiamo parlando di uno spazio geografico che è stato austro-ungarico prima, parliamo di uno spazio appunto che ha conosciuto l'annessione, il passaggio al Regno d'Italia tardivamente, cioè dopo la Prima Guerra Mondiale, un'area caratterizzata dalla presenza di gruppi linguistici differenti, la presenza di un confine sempre presente, nonostante i momenti in cui magari era sembrato, come dire, indebolirsi. Pensiamo alla questione del confine del Brennero, che all'interno del processo di unificazione europea sembrava dovesse così dissolversi e che invece negli ultimi anni ha visto un ritornare alla ribalta piuttosto drammatico. E secondo me a noi confrontarci con questa realtà del confine orientale ci è utile, perché ci consente di anche un po' ridimensionare la nostra pretesa di unicità, no? Di eccezione, di complessità, la nostra realtà regionale, appunto multilingue, di confine, eccetera, e ha ovviamente le sue specialità, però in realtà, e i libri di Pupo in questo ci confermano, ci mostrano come quel confine, quell'area, siano ben più complicati, ben più come dire, attraversati anche da tensioni di lungo periodo di quanto non sia avvenuto e non avvenga nella nostra area. E quindi di come questo intreccio tra diverse popolazioni di diversa lingua sia ancora, o meglio, forse sia stato ancora più intricato che qui al confine settentrionale, e di quanto le vicende appunto di quel confine e i suoi spostamenti, gli spostamenti della linea di confine siano stati ad esempio più numerosi, più combattuti, e di come la vita delle popolazioni, di come i profili etnico-nazionali siano stati modificati e siano stati anche travolti dalle vicende della storia, più di quanto non sia avvenuto qui da noi. Per non parlare poi del grado di violenza che quel territorio ha conosciuto nel corso del XX secolo. Quindi è sempre un'occasione, secondo me, molto utile per allargare lo sguardo dalle vicende del nostro territorio, e utile perché ci offre continuamente degli spunti di comparazione, di riflessione, che ci servono per leggere con maggiore equilibrio le vicende, le nostre vicende. E devo dire che questo libro conferma l'estremo interesse dei temi legati al confine orientale e conferma anche il valore, diciamo così, della produzione scientifica di Pupo. E la prima cosa da sottolineare in riferimento a questo libro, ma direi in riferimento in generale alle cose che ha scritto Pupo, è la sua capacità, diciamo così, di scrivere e di rivolgersi non soltanto per gli storici. Non si rivolge soltanto agli storici, ma ha una capacità e una volontà, diciamo così, di rivolgersi, di scrivere in maniera molto gradevole, cosa che non sempre in Italia la categoria degli storici si sforza di fare. È un po' una categoria a volte molto autoreferenziale, nonostante ci sia nella società una grossa fame, no, di storia. E da questo punto di vista gli storici rischiano, e sbagliando secondo me, di rinchiudersi un po' in un mondo autoreferenziale, di scriversi un po' addosso, ecco. Invece questo assolutamente non avviene nei libri di Raul Pupo, in particolare in questo libro qui, che è scritto in maniera molto, molto gradevole, molto leggibile. E il libro è in primo luogo la storia di una città, ovviamente, di Fiume, ma più in generale è la storia di un territorio, è la storia di un mondo che per certi aspetti non c'è più, e di un'area geografica, come dicevo, estremamente complessa dal punto di vista delle comunità che l'hanno abitata, e che nel corso del Novecento ha subito un processo che potremmo definire un processo anche drammatico di semplificazione, no? La grande semplificazione, ricorre questa definizione all'interno del libro, una grande semplificazione nazionale che ha modificato profondamente nel giro di meno di un secolo questa città. Se pensiamo che nel 1910, quando avviene il censimento, l'ultimo censimento austro-ungarico, come ci ricorda giustamente Pupo, i censimenti etnici sono sempre da prendere con le pinze, però ci danno delle indicazioni comunque indicative e interessanti. Ecco, nel 1910 a Fiume vivevano 24.000 italiani, 13.000 croati, 2.000 sloveni, 6.000 ungheresi, o meglio, 24.000 che parlavano italiano, 13.000 che parlavano croato, eccetera, eccetera, e cioè è un momento in cui la lingua d'uso, la lingua parlata, anzi molto spesso le lingue parlate, perché il bilinguismo e il trilinguismo erano cosa abbastanza diffusa, ancora non definivano in maniera rigida e unilaterale l'appartenenza nazionale. È proprio in quel momento lì, in quella fase lì, a cavallo tra i due secoli, in cui invece l'appartenenza nazionale si disegna e si irrigidisce proprio a partire dalle lingue d'uso. Però è una realtà sicuramente molto varia, molto eterogenea, con la presenza importante di diversi gruppi linguistici, con la presenza italiana molto forte. Beh, nel 2011 il profilo di questa città diventa una città essenzialmente croata, diciamo così, con l'83% appunto di parlanti croato, con presenze serbe, bosniache, slovene e con meno del 2%. Anche a Valencia, ecco, e con meno del 2% di presenza italiana. Ecco, il processo, la storia che ci viene raccontata in questo libro è proprio la storia che conduce a questa drammatica semplificazione, anche culturale, su un territorio limitato che Fiume, ma è un discorso che si può estendere a un territorio più esteso come quello del confine orientale. Ecco, io farò un po' un dialogo con il professor Cupolo, cioè gli farò qualche domanda e dopo lui si scatenerà e vediamo un po' quante domande riuscirò a fargli. Però quello da cui vorrei partire è proprio questo: è un processo di semplificazione nazionale, è un processo di nazionalizzazione, diciamo così, in cui la lingua diventa uno degli strumenti di questa nazionalizzazione. Però interessante è notare come all'interno del libro, come scorra un po' all'interno di tutto il libro, il tema del municipalismo fiumano, e cioè il tema di un'identità prettamente urbana, legata alla cittadinanza, alla città, un'identità cittadina molto forte, che conduce nelle diverse fasi della storia che qui viene ricostruita anche a forme di mobilitazione politica di segno appunto autonomista, legate al territorio della città. Ed è un autonomismo che in diverse fasi storiche e con una continuità significativa pare poter competere anche contro i nazionalismi che si sfidano in quest'area di confine, a Fiume ma non soltanto, e quindi pare questo municipalismo capace di schierarsi contro il doversi classificare da una parte o dall'altra, dalla parte della nazione italiana o dalla parte croata o jugoslava. Ecco, la prima domanda è proprio questa: che cosa possiamo dire di questo municipalismo? Che percorso conosce all'interno di questo secolo? Si può dire che svanisca definitivamente in un dato momento, che venga schiacciato definitivamente da questa lotta nazionale, o è comunque un po' un fiume carsico che continua a scorrere sotto traccia e che in diverse occasioni invece torna e si fa vedere? Benissimo. Bene, innanzitutto buonasera, grazie che ci siete venuti, grazie Andrea per aver creato il pretesto di tornare a Bolzano a fare il giro della pasticceria, cosa faccio sicuramente. Allora, municipalismo, non sono sicuro che si senta molto bene, si sente? Sì. Allora, municipalismo e nazione, due termini sono intrecciati, perché noi quando pensiamo ai processi di nazionalizzazione abbiamo in testa uno schema un po' lineare, no? Esistono i gruppi linguistici, a un certo punto questi gruppi linguistici si nazionalizzano, diventano nazioni, cominciano a fare qualcosa di loro, fondamentalmente questo è lo schema, nazione dell'Italia, nazione di Bassa, e quindi questo ha dei conflitti. No, il municipalismo in questo caso interviene a complicarci le idee, perché è un municipalismo che a un certo punto si trasforma in nazione. Allora, prendiamolo un po' da lontano. Il municipalismo nasce come tutti i municipalismi urbani. Ci sono delle città d'origine medievale, fondamentalmente, che in una società in sé regime difendono la propria autonomia come fanno tutte, no? E normalmente agli albori della modernità questo municipalismo entra in crisi perché viene spazzato via dalla costruzione dello Stato moderno. Questo è lo schema semplice. Bene, nel caso di Fiume la costruzione dello Stato moderno eccita il municipalismo, non solo gli consente di sopravvivere ma addirittura la sottolinea. Com'è possibile? E poi possibile perché agli inizi del Settecento l'Interburgo, come sapete benissimo, ha bisogno di cominciare a fare un po' di quattrini, ecco, dopo tutte le guerre che ha passato, e sceglie la via dei traffici, marittimi, e investe su due porti che possiede, che sono Trieste e Fiume, facendo i porti franchi. Allora, questa da una parte fa la fortuna di queste due piccole cittadine, che prima piccole erano, poi cominciano a crescere e a diventare molto ricche. D'altra parte, l'impero ha bisogno di un controllo diretto su questi suoi sbocchi, perché sono i suoi unici sbocchi al mare. Quindi è interessato ad un rapporto diretto tra il centro, chi governa, e lo sbocco al mare, il porto. Ecco allora che Trieste diventa il porto dell'Austria, Fiume diventa il porto dell'Ungheria, e anche dal punto di vista amministrativo il rapporto diretto non mediato. Trieste, ad esempio, diventerà tutta una città immediata, cioè non mediata. Insomma, il comune risponde direttamente all'imperatore. Vuol dire che salta tutti i passaggi intermedi, tutte le magistrature intermedie, tutti gli enti intermedi, ad esempio le diete provinciali. Nel caso di Fiume, una dieta non da poco, che è la dieta della Croazia. In questo momento non possiamo parlare del conflitto nazionale, perché i croati non esiste il termine nazionale, il conflitto è giurisdizionale. Chiaramente la dieta croata vorrebbe poter estendere il suo controllo su un ricco popolo che sta crescendo, questo dipende direttamente invece dal termine ungherese. Addirittura Fiume viene costituita come corpo separato del regno d'Ungheria. Il Parosburgio, come sapete, è un po' complicato, no? L'Ungheria, il regno d'Ungheria faceva parte dell'impero. A sua volta il regno d'Ungheria prendeva la Croazia e tante altre terre. Fiume fa parte del regno d'Ungheria, ma senza passare per la Croazia, direttamente come corpo separato del regno d'Ungheria. E quindi questo gli consente di mantenere la sua autonomia. Autonomia è una cosa molto semplice: il municipio si governa con i propri statuti, che sono gli statuti ancora del 1500, di scatto del punto di revisione. Cioè, a casa propria i giornali fanno esattamente tutto quello che vogliono. Poi le cose grandi ci pensa il governo, ma a casa propria si governano da soli. Ora, quindi, questa singolarità viene mantenuta, e viene mantenuta anche, continua a mantenersi, quella che è una peculiarità anche dal punto di vista linguistico e culturale, perché Fiume è collocata in un contesto che è un contesto unicamente croato. Tutti i paesi vicini sono abitati da croatofoni. Addirittura di fronte alla città, oltre a un fiume pomposamente chiamato Fiume o Fiumara, addirittura è meglio che questo del Torrentello, no? Dall'altra parte c'è il borgo di Suscia, che è integralmente croato. Questo apre tutta una discussione come mai Fiume è nata a dire italiano, lasciamo perdere, no? La tosta che Fiume è storicamente un centro di agricoltura italiana, che grazie a questa invenzione del corpo separato mantiene la sua identità. Ora, questa è un'identità particolarissima, autonomistica e culturalmente italiana, si rafforza nel corso dell'Ottocento e si politicizza, perché l'Ottocento è l'epoca della nascita delle nazioni, evidentemente. Quindi questa singolarità comincia ad assumere anche una tinta politica. In Croazia nasce il Movimento Nazionale Croato, che rivendica lo spazio culturale, linguistico e politico della nazione croata, anche Fiume. I fiumani non si sentono affatto croati, si sentono di lingua e cultura italiana e patrioti maggiori. Questo lo si vede benissimo nelle crisi di metà 800, la crisi del 48, no? Grande rivoluzione del 48. A Fiume c'è un risorgimento, ungherese. Nel senso che la città, la municipalità si schiera con il governo di Budapest contro il governo di Vienna. Ma chi è che seda la rivolta ungherese? Non il governo di Vienna, ma il bando di Placido Croato, cioè i croati che si ribellano allo Stato ungherese, complicatissima storia. Quindi Fiume viene occupata dai croati proprio di ungheresi. Ecco che il conflitto in questo caso si politicizza. I fiumani sono fierissimi patrioti magiari di lingua e cultura italiana. 20 anni dopo questo loro status viene confermato quando l'impero sbocchio diventa duplice monarchia austro-ungherese. L'Ungheria riacquista una fortissima autonomia che arriva quasi alla soglia dell'indipendenza, c'è un governo a sé, un governo, un parlamento, un gabinetto a sé. E Fiume nuovamente, anche se per le giuridiche tortuosissime, viene confermata come corpo separato. A questo punto la separatezza, corpo separato dell'Ungheria, a questo punto questa individualità di Fiume ha forti contenuti culturali e nazionali, evidentemente, perché dall'altra parte c'è un movimento nazionale croato molto forte che rivendica Fiume in nome di che cosa? In nome di una concezione etnica della nazione. Concezione etica, sapete bene, è quella che è la concezione sangue terra, no? Concezione eticista. I fiumani hanno la concezione della nazione completamente diversa, che è quella del tipo volontarista, come questa situazione tipica di tutte le realtà adriatiche, no? Gli italiani hanno la concezione volontarista, sia quello che si vuole, e i sloveni e i croati la concezione eticista. Troverete nel libro una in traduzione che non è tanto bella, ma è una poesia di un poeta fiumano croato che si lamenta perché Fiume, anima croata, la vuole negare, no? Nega questa sua anima croata, perché anima croata? Perché sta in alto non potrebbe essere croata, ma Fiume non lo potrebbe essere. Ecco qui una città di nazionalità culturale italiana, assolutamente fedele alla monarchia e in particolare al regno d'Ungheria, tanto che si parla di un idillio fiumano mangiare. C'è una forte convergenza tra il governo di Budapest e il municipio di Fiume, in chiave anticroata. La città quindi cresce, addirittura esplode dal punto di vista urbanistico. Qualche problema comincia ad arrivare all'inizio del Novecento, quando il governo di Budapest avvia un'opera di magiarizzazione. Allora, questa magiarizzazione è stata variamente maledetta dalla pubblicistica e dalla storiografia fiumana per evidenti ragioni. A noi talvolta fa un po' sorridere. Cosa pretendeva il cattivo governo di Budapest? Pretendeva che le leggi del Parlamento di Budapest venissero rispettate anche nella città di Fiume, senza bisogno del firmato del Consiglio Comunale. A noi sembra una cosa piuttosto ovvia, ma per tutto quello fiumano questo era vulnus, evidentemente. Poi pretendeva che a Fiume arrivasse la polizia di Stato ungherese, non soltanto i vigili urbani fiumani. Anche questo era un vulnus, evidentemente. Poi pretendeva qualcosa di più, anche le scuole in lingua magiara, oltre che in croato. Questo crea dei dissapori con la popolazione, con la sua classe dirigente. Ma che sbocco trovano questi dissapori? Non trovano uno sbocco della conquista, se non più tardi in una generazione di giovanotti. La classe dirigente fiumana fonda un partito, che prima non c'era, perché non c'era bisogno, fonda il partito autonomista, naturalmente, ecco, non filo italiano, ma autonomista, un partito che vuole semplicemente la difesa dell'autonomia fiumana, in nome di che cosa? In nome del principio di nazionalità. E qual è questa nazione? È la nazione fiumana. Nazione fiumana che si definisce fatta dagli italiani fedeli alla monarchia e cuocere. E costruisce questa nazione. Noi conosciamo i procedimenti di costruzione delle nazioni di massa, no? Attraverso l'istruzione, ma questa è un po' più difficile da parte del comune, ma attraverso il tessuto organizzativo, attraverso i canti, i concorsi, le bandiere, le scatole di fiammiferi, gli slogan, tutti insomma i procedimenti normali per la costruzione di una nazione moderna vengono fatti a Fiume per la costruzione della nazione municipale. Soltanto un piccolo gruppo di giovanotti, poco prima della guerra, sceglie l'irredentismo, ma sono pochissimi. La situazione cambia completamente dopo la prima guerra mondiale. Dopo la prima guerra mondiale l'impero non c'è più. Al posto dell'impero che cosa c'è? Da una parte c'è il Regno d'Italia, al quale il film non ha mai guardato perché non basta, sta di là, sta in mezzo c'è l'Istria, non è un interlocutore politico, no? Economicamente sì, soprattutto alla costa del centro, del centro Italia, dell'Adriatico, del resto no. E dall'altra parte ci sta il Regno di Jugoslavia. Il Regno di Jugoslavia è un regno nazionale, è il regno nazionale dei serbi, croati e sloveni, cioè un nemico storico fondamentalmente, quelli che vorrebbero allungare le mani rapaci, così veniva detto, su italianissima città di Fiume, italianissima ancora dal punto di vista nazionale e non politico. A questo punto il nazionalismo si politicizza, piuttosto che la Croazia meglio l'Italia, per cui di colpo tutti i fiumani di lingua italiana diventano irredentisti. Tanto che Fiume diventa la nuova città irredenta e l'Italia si mette a rivendicare la conferenza della pace, ne serve un pasticcio senza fine, c'è un intero noiosissimo capitolo su questo, perché sono le trattative di pace di esattamente un secolo fa, che sono piuttosto complesse. Ecco. La situazione rimane bloccata e al Fiume arriva la vuota, arriva la nozze, no? Non faccio tutta questa notiziana, la domani faremo dopo. Cosa fanno gli autonomisti? Inizialmente lo colpono a braccia aperte. Quando però si rendono conto che D'Annunzio non è lì soltanto per Fiume, ma anche diciamo con altre idee, e ha questa voglia di comandare con suo, e non è che l'interesse molto di Fiume, cioè l'interessa la Fiume del suo spirito, ecco, quella che immagina un luogo simbolico, da Fiume magari l'interessa pochissimo, ecco che si disamorano rapidamente, no? E i Fiume leader autonomisti sono nettamente contrari ad D'Annunzio, però sapete D'Annunzio non ama, ecco, diciamo, essere messo in discussione, quindi gli autonomisti se ne devono andare. Però a un certo punto se ne va anche da Dunzio, la cannonata se ne va anche da Dunzio nel 1920. E il Trattato di Lavaglio prevede la costituzione di uno Stato libero. Come reagiscono i fiumani? Benissimo. Esattamente quello che desideravano. Sono autonomisti, gli fanno addirittura uno Stato aereo, che sembra un po' una topolinea, no? Evidentemente. Allora sono d'accordo. Vanno a votare, il partito irredentista non vince le elezioni, lo vincono gli autonomisti. E infatti il governo è un governo autonomista, la larga maggioranza dei votanti per l'autonomismo, per il mantenimento di questo Stato aereo libero. Solo che in quegli anni, siamo all'inizio degli anni 20, la politica, come sapete bene, non si fa con i voti, ma si fa con i bastoni. E se non basta con i bastoni, si fa anche con le schioppettate. Per cui due anni dopo, colpo di Stato fascista, lo Stato libero collassa. Non è difeso da nessuno, due anni dopo verrà annesso l'Italia. Che fine fanno gli autonomisti? Tornano in silenzio, diciamo, nelle catacombe, non li fanno male, nessuno li fa del male. No. Però c'è stato che ormai c'è il fascismo, non c'è più spazio, evidentemente. Fiume diventa una provincia come le altre, ma non spariscono. Tant'è che durante la resistenza non c'è una resistenza vera a Fiume, perché i fiumani di lingua italiana non saprebbero come resistere e in nome di che cosa, perché l'Italia è lontana e quindi sono un po' in imbarazzo. E della resistenza covata non si fidano particolarmente. Però gli unici che vengono riconosciuti come leadership naturali sono ancora una volta gli eredi del partito autonomista. E difatti i rappresentanti del movimento di liberazione croato a chi si rivolgono per cercare di mobilitare le masse fiumane? Si rivolgono agli autonomisti con un'offerta di alto profilo. Offerta è: nel dopoguerra voi amministrate la città, voi vi lasciamo amministrare la città perché siete la classe dirigente storica, però voi dovete pronunciarvi esplicitamente per la missione dell'Italia. I leader autonomisti rispondono assolutamente no, noi siamo per lo Stato libero. E il rappresentante croato, con una frase che risulta verbale, dice: mi dispiace, ma qui scorre del sangue. E di fatti sangue scorre. Quando poi arriva la liberazione dei tedeschi, l'instaurazione dei poteri popolari, le prime vittime oltre i fascisti sono gli autonomisti, la cui classe dirigente viene decapitata fisicamente, non solo politicamente. Ecco, questa è la fine dell'autonomismo. No? Poi resta semplicemente esilio, non c'è un vero e proprio movimento di resistenza contro l'occupazione jugoslava, perché non è possibile, perché la repressione è molto forte. E quindi gli autonomisti sono costretti a prendere la via dell'esilio insieme a tutti gli altri, mantenendo anche nell'esilio un po' delle loro caratteristiche. Ecco, c'è ancora, è rimasto nella diaspora questo piccolo figlio autonomista, tre volte in dialogo in polemica con quelli che invece hanno seguaci del credentismo, poi però arrivandoci alla storia degli 80 anni che dopo abbiamo fatto la pace. Ecco. Però questo spirito autonomista è rimasto un po', no? E diciamo che probabilmente il principio identitario più forte, il filo rosso continuo di tutta la storia fiumana, fino a quando Fiume esistita. Fiume cessa di esistere nel 1953. Beh, allora intanto abbiamo già avuto un quadro abbastanza chiaro della complessità e diciamo così. Facciamo dopo le domande. Quando finiamo facciamo le domande. Ma andiamo proprio al periodo dell'autonomia. Però facciamole dopo perché sennò ci disperdiamo un po' troppo. E ci sarà tempo per farle comunque. E ecco, questa questione dell'autonomismo mi sembra interessante anche perché ci riporta un po' a quello che è stato anche la storia della nostra regione, no? In Trentino, quando prima che scoppi la prima guerra mondiale, la tendenza autonomista è più forte di quella irredentista. Quindi il Partito Popolare, De Gasperi, ad esempio, lottano e chiedono un'autonomia separata all'interno del Tirolo, non chiedono il passaggio all'Italia. Certo, poi lo scoppio della guerra catalizzerà le posizioni appunto saranno o di qua o di là, e lì non ci sarà più spazio ovviamente per un discorso autonomista. Però ecco, la questione della nazionalizzazione di questi territori di confine a volte così nell'immaginario la facciamo un po', la ritrovatiamo un po', ecco, sicuramente la prima guerra mondiale è un catalizzatore fortissimo in questo senso, ma prima le cose sono più complicate. E se facciamo un passo un po' in avanti, ovviamente il Fiume deve la sua notorietà, come è stato detto, all'impresa d'Annunziana, no? È inutile girarci intorno, e anche il titolo del libro, Questa città di passione, si rifà ad Annunzio. È difficile sintetizzare brevemente il significato, i caratteri di questa esperienza, e nel libro se ne colgono i tanti, i numerosi aspetti, i segni diversi e anche le contraddizioni di questa impresa. Abbiamo la minima più, diciamo, truce, violenta, e che rilancia anche un po' il culto della morte, la violenza, gli slogan che poi sarebbero diventati gli slogan del fascismo, no? Da lei, lei, alla, me ne frego, a noi i discorsi pronunciati dal balcone. Però allo stesso tempo abbiamo degli elementi molto differenti, abbiamo anche un'anima libertaria, una festa senza fine, un paragrafo di questo libro, abbiamo appunto una frenesia dei sensi, anche di carattere sessuale, uso di droga, abbiamo una fase che vorrebbe essere internazionalista, Fiume come elemento appunto di rottura delle varie divisioni nazionali, e abbiamo la presenza di posizioni politiche diversificate, abbiamo i sindacalisti rivoluzionari attivi, abbiamo i contenuti della carta del Carnaro, una sorta di, diciamo, costituzione che poi di fatto non si concretizza in nulla, abbiamo Fiume come paradiso delle avanguardie artistiche e abbiamo anche a indicarci questa varietà estrema il curriculum dei tanti protagonisti di questa impresa che nella fase successiva troviamo schierati un po' di qua e un po' di là, insomma, troviamo schierati tra fascismo e antifascismo. E quindi che cosa possiamo dire, che cosa è stata l'impresa di Fiume più che per Fiume stessa, per la storia d'Italia? Ecco, la domanda è posta correttamente. Per Fiume è stata in parte una sorpresa. Cosa volevano i fiumani? I fiumani cercavano Garibaldi, fondamentalmente, no? Cioè qualcuno, un personaggio autorevole italiano, che facesse quello che Garibaldi la città del Risorgimento. Un'impresa ufficialmente non concordata con il governo italiano, quella se ne lavava le mani, che però se riusciva bene ne faceva un eroe. E se riusciva male lo si pigliava e si metteva per qualche giorno in galera, prendeva Caprera e poi ricominciava, no? Era tutto questo quello che volevo. Con una singolarità che torna in varie fasi della storia d'Italia. A chi si rivolgono i fiumani? Non cercano un generale, perché non c'è nessun leader militare carismatico, si rivolgono a un mondo di spettacolo. Se avete delle assonanze, sono giuste, evidentemente. Nella crisi gli italiani si rivolgono a un mondo di spettacolo. Mica D'Annunzio prima, Primo un altro Sembenelli che non è molto noto. Ecco, quando lo dico in visto lei dico, D'Annunzio ci arrivano, Sembenelli un po' meno, ecco, però quello è portato a modo, e poi fanno su D'Annunzio, no? Solo che D'Annunzio fa per bene. D'Annunzio perché va a Fiume? Certamente per motivazione patriottica di salvare Fiume all'Italia, non c'è dubbio, no? Ma va anche per cominciare il percorso, no? Per concluderlo. Non va a Fiume per stare a Fiume. Va a Fiume perché ha ragionevole speranza, perché molte volte hanno detto, che da Fiume partirà il marzo Roma. Cioè partirà un pronunciamento militare delle truppe schierate a confine militare, che sono ancora numerose, per dare una spallata al governo Nitti. Governo Nitti accusato dalla destra nazionalista di rinunciatarismo per la sua gestione della conferenza della pace, no? Quindi questo è il progetto con elevate sponsorizzazioni. Solo che poi arrivare a Fiume è facilissimo, partire da Fiume è un po' più difficile, perché le fila della cospirazione si sfilacciano, quindi invece si rafforza, la buona idea di chiedere al sovrano di convocare un consiglio della corona, così la corona è un organo informale, qui stava chi sovrano, il presidente del consiglio, i capi di due rami del Parlamento e le personalità maggiori del Parlamento. E lì tutti quanti si erano uniti, compresi i nazionalisti, dicono no, non possiamo annettere Fiume, è un disastro dal punto di vista internazionale, non si può reprimere D'Annunzio, non si può neanche dare ragione. Quindi Nitti non trapalla. Anzi, va alle elezioni e le elezioni le vincono non i nazionalisti ma i socialisti popolari. Quindi il disegno è fallito. E questo è importante perché ci segnala una cosa che di solito non si pensa. Nel dopoguerra italiano c'è un bruciarsi rapido di tante ipotesi politiche. C'è l'ipotesi rivoluzionaria di sinistra, quella di Via Rossa, che si esaurisce in 2 anni. Ma in 2 anni si esaurisce anche l'ipotesi emersiva della destra tradizionale, quella della destra nazionalista, pur con le novità che vi porta D'Annunzio. E anche questa si esaurisce perché fallisce, non riesce a prendere il potere. Ne verrà fuori un'altra, qui non pensava assolutamente a nessuno, che l'ipotesi Mussolini, che viene fuori dopo, evidentemente, dopo che le prime due sono bruciate, dopo che D'Annunzio è politicamente finito, e così sono finiti i comunisti e i socialisti dell'altra parte. Comunque nel frattempo, visto che la funzione a Fiume deve rimanere lì perché non si può fare altro, come dire, intanto ci diverte, no? Ed essendo un genio, si può salvare tutte le idee possibili sull'opera sia politica che letteraria, da tutti, non c'è dubbio che è un genio, no? Si diventa un suo con una raffica di invenzioni che in fondo hanno un elemento comune. Cos'è a questo punto l'impresa di Fiume d'Annunzio più che per l'Italia? Per D'Annunzio è un'opera d'arte. C'è un'opera politica che è anche un'opera d'arte. D'Annunzio non è un politico in senso tradizionale, non è come Mussolini, ad esempio, no? Però è un intuito politico, è un artista che concepisce l'opera come un manufatto artistico, la politica come un manufatto artistico. E la sua disposizione, a disposizione non un testo da scrivere o una commedia da rappresentare, ma una società e uno stato da creare, quindi il massimo cui l'artista possa ambire, può creare una realtà e plasmarla su immagine e somiglianza. Uso questo termine, questa frasologia biblica, perché esattamente è quello che Dio annuncia, cioè lui si presenta come il nuovo Cristo della nuova religione della patria, chiusa parentesi, no? E quindi crea, no? Crea la nuova politica, c'è questo rapporto diretto, anche se è un po' finto, con le masse, e lascia anche spazio alle creazioni artistiche, non soltanto sue, cioè diventa Fiume il punto di condensazione delle avanguardie europee. Allora Fiume è completamente tante cose. Per l'Italia è un colpo di piccone terrificante alle istituzioni liberali, assolutamente sì. E la dimostrazione, ad esempio, che le forze armate non sono più legate alla disciplina tradizionale, questo è un elemento importantissimo. Ancora una volta il paragone con Garibaldi, cosa che con i miei studenti non riesco a fare, ma che voi, con voi probabilmente sì. Vi ricordate Garibaldi da Spromonte? Garibaldi va da Spromonte, il governo italiano il contrario, arrivano i bersaglieri, cosa fanno i bersaglieri? Spatto su Garibaldi, nonostante sia padre della patria, perché era fatta lui di prendere il minimo che anni prima. Nel 1919 D'Annunzio con soldati ribelli in marcia su Fiume, cosa fanno i soldati che lo vanno a fermare? Minacciano di sparare sul loro generale. Quindi è cambiato tutto. I soldati sono diventati soldati ribelli, su questo si potrebbe ragionare a lungo perché, ecco, ma la disciplina dell'esercito non esiste più, lo Stato non è in grado di controllare lo strumento militare. Lo Stato non è in grado di reggere una subordinazione militare, quindi un colpo di piccone gravissimo alle istituzioni liberali. Beh, D'Annunzio invece è la grande occasione della sua vita, la grande occasione dopo la quale non ci sarà più nulla in realtà, cioè lui punta tutto, scommette tutto su questa impresa, tant'è che non accetta, non riesce a rendersi conto di quando essere vita di quando è finita. Devono prendere la cannonata per mandarlo via, perché non capisce che ormai è finita. E dopo la fine dell'esperienza fiumana, in realtà non farà più nulla, non dal punto di vista letterario, dal punto di vista politico. Cercheranno ancora di portarlo sulla scena. C'è un progetto politico nel 1922 per fare di D'Annunzio il grande pacificatore fra socialisti e fascisti, il 4 novembre. È per questo che Mussolini anticipa la marcia a ottobre, proprio per evitare di essere giocato da D'Annunzio, ma D'Annunzio aveva già detto di sì, no? Non se la sentiva, non se la sentiva di giocare un ruolo di protagonista su uno scenario grande come il paese, la sua dimensione era Fiume, che lui controllava e poteva plasmare appunto a sue varie somiglianze. Ecco, giustamente è stato sottolineato questo ruolo di destabilizzazione, no? Dell'impresa d'annunziana, pezzi dello Stato, delle istituzioni che sostanzialmente disobbediscono e si schierano con questa sollevazione. E qui mi sembra interessante la questione di ciò che avviene ai confini, sostanzialmente, no? Perché abbiamo questa impresa di Fiume che è una ribellione di fatto non repressa, che le istituzioni non reprimono. Abbiamo poi nel marzo del 22, quando abbiamo la costituzione dello Stato libero di Fiume, questo tentativo di colpo di Stato fascista a Fiume, e abbiamo nell'ottobre del 22 la marcia su Bolzano, quindi un altro elemento di destabilizzazione, cioè un'altra occasione in cui proprio ai confini dell'Italia le forze fasciste militarmente si rivolgono contro le istituzioni. Ecco, quella della marcia su Bolzano poi è particolarmente grave dal punto di vista così politico-istituzionale, perché è una marcia, un'impresa, un'aggressione alle istituzioni liberali, che sono appunto quelle commissariate. commissariato generale civile che governa da Trento tutta la regione che è da poco annessa, e quindi c'è la cacciata praticamente di questo rappresentante dello Stato, c'è la cacciata del sindaco di Bolzano per Adonere, eccetera, eccetera. Quindi mi verrebbe da chiedere, sembrerebbe esserci una sorta di fascismo di confine, se si può definire così o se si deve definire in altro modo, che proprio i confini del paese, confini caratterizzati da questa situazione complicata dal punto di vista etnico nazionale, presenza di altri gruppi linguistici, eccetera, dimostra un attivismo anche di tipo militare che altrove non dimostra, che in qualche misura anticipa la marcia su Roma dell'ottobre del 22. Ecco, come mai queste anticipazioni provengono proprio dai confini? Sì. Il fascismo dei confini è certo che si può parlare evidentemente come fenomeno comune sia all'area tirolese che all'elettorale, ecco, se possiamo chiamarle così, con specificità diverse, no? Però con alcuni ritratti fortemente comuni, quali sono ritratti fortemente comuni? L'ostilità nei confronti dell'elettorato nazionale, evidentemente, no? Oltre all'antisocialismo e l'antiliberalismo che è comune, c'è questo dato particolare della presenza di allo globe che esce dallo sentimento nazionale, e su questo il fascismo scappa e trova larghissimo consenso. Non nella provincia di Bolzano, quale Trento sì, ma nella provincia di Trento trova largo consenso. Tenendo sempre conto che il fascismo in realtà arriva un po' dopo, perlomeno il confine orientale arriva dopo l'annunzianesimo, e ha il problema di differenziarsi dall'annunzianesimo. Alcune delle prime uscite del fascismo nel 1920 sono fatte esattamente a questo scopo. Dimostrare che esiste un altro polo intorno al nunzio. La prima uscita in forze del fascismo al confine orientale è il Centro Imperiale del Nord del 1920, che è fatto proprio per questo, per mostrare che a Trieste esiste una realtà fascista che non è subordinata al nunzio, no? Poi c'è un gioco molto complesso tra Mussolini e nunzio. Sapete, Mussolini è formalmente la voce di D'Annunzio d'Italia, in realtà preoccupatissimo della lintesi di D'Annunzio e spera che D'Annunzio si luci, perché evidentemente D'Annunzio occupa tutta la scena politica a destra. Per sua fortuna D'Annunzio non ha tutto politico, effettivamente si brucia politicamente e Mussolini può raccogliere l'eredità, nonostante l'abbia tradito, perché con l'approvazione del trattato di Rapallo che Mussolini dà chiaramente tradisce, no? Però questo poi viene dimenticato e parte del fiumanesimo converge nel fascismo di confine. Allora, questo a proposito di questa forza precoce del fascismo di confine, alcuni storici hanno fatto questa ipotesi. Dicono fondamentalmente questo: se noi adottiamo soltanto l'ottica della storia italiana, ecco che alcune presenze molto precoci del fascismo ai confini ci sembrano proprio una singolarità, ci arrovelliamo un po' a capire perché. Proviamo a guardare dall'altra parte, proviamo a guardare invece che la destra, da sinistra, guardiamo a destra, cioè dal territorio esasburgico. I territori esasburgici sono investiti immediatamente nel dopoguerra da una crisi politica gravissima che assume quasi dappertutto le forme del paramilitarismo, della violenza armata. Questo accade quasi ovunque nei territori esasburgici, accade in Ungheria, accade in parte in Austria, accade nei territori che potrebbero far parte della, e quindi queste suggestioni arrivano fino alle zone di confine, anche lì si fa come più o meno si fa dalle altre parti. Questi territori di confine hanno una particolarità, no? Perché è comune sia alla zona Trentino-Tordesina che alla zona adriatica, vivono contemporaneamente la duplice crisi, la crisi dell'impero asburgico, che è la crisi più vastante evidentemente, e la crisi dello Stato liberale italiano, quindi si sommano. E diventano anche dei simboli del nuovo nazionalismo e del nuovo fascismo entrante, no? Che mostra, vuole mostrare la sua forza proprio nei territori appena redenti, dove il processo di nazionalizzazione è più vicino, e sono diventati dei simboli della nuova storia della vittoria italiana. Quindi lì il fascismo vuole far vedere la sua presa e lì fa anche il suo colpo di forza. E poi abbiamo appunto l'avvento del regime, del fascismo che diventa Stato, che diventa regime e che nelle zone di confine, come sappiamo, mostra la sua faccia più dura, ossessionato com'è dalla necessità di rendere omogeneo, diciamo così, il profilo dell'italiano nuovo che si vuole costruire, e quindi con un attacco esplicito e manifesto nei confronti delle minoranze nazionali. Ecco, come si concretizza sul confine orientale questo attacco a Fiume e quanto è differente l'azione a Fiume dal resto, a Trieste ad esempio, e dal resto della Venezia Giulia, e soprattutto raggiunge gli obiettivi che si era prefissato? Dunque, la politica di snazionalizzazione fascista era dato anche la coppia di quello che viene fatto in Alto Adige, perché la legislazione la stessa viene applicata anche nella Venezia Giulia un anno o due anni dopo, con una differenza che voi sapete meglio di me: mentre in quest'area la differenza linguistica è abbastanza concentrata su due poli abbastanza notevoli, quello a sud e quello a nord, nella Venezia Giulia invece la popolazione è molto mista, no? Quindi la compresenza di italiani e slavi è veramente a macchia di leopardo, con numerosi fenomeni di mistilingui, di bilismo, quindi è molto più complesso, ecco. È più complesso e la politica è anche più dura, nel senso che da parte del regime nei confronti delle minoranze che vengono chiamate loggia, non sono da loggia, sono indigene evidentemente, sono semplicemente aldoglobe, c'è anche un complesso di superiorità, e c'è molto meno nei confronti dei tedeschi evidentemente, c'è un complesso di superiorità nei confronti degli slavi, questo conta moltissimo. Le politiche sono quelle tradizionali di omogeneizzazione nazionale, quindi la distruzione dell'identità nazionale, il divieto dell'uso della lingua, la distruzione del tessuto cooperativistico, associazionistico, culturale, politico, la battaglia sul cognome, la battaglia sui toponimi, la battaglia sul nome di battesimo, tutte queste misure evidentemente, che vengono giocate in misura varia, talvolta in maniera più intensa, ad altra meno. Ad esempio, in realtà, come Trieste è molto forte, perché lì c'è un antagonismo nazionale all'interno della società molto forte. Secondo le testimonianze di parte fiumana, Fiume un po' meno. A Fiume un po' meno perché l'antagonismo è minore, perché il polo di riferimento per i croati di Fiume non era mai stato Fiume città, ma Susa, cioè la città dall'altra parte, che è comunque jugoslava. E poi pare, però, qui sarebbe interessante, cosa che non è ancora stata fatta, spero che si prenderà l'occasione a questo centinaio di eventi di fare questi ragionamenti. Nelle memorie di fiumani italiani la politica della nazionalizzazione sembra abbastanza bonaria, nel senso che poi si lasciava correre. Nelle memorie ritrovate vedremo, ecco quello che dicono. Però sembra ci sia un'intensità minore. All'interno però di un quadro che è un quadro di politica, naturalmente di politica etnica, se non ce ne sono dubbi. I risultati. Anche qua, risultati difformi, bisogna assolutamente distinguere fra i contesti urbani e i contesti di campagna. Nei contesti urbani la politica di nazionalizzazione forzata ha successo. Ha successo perché? Perché sono quelli in cui le minoranze hanno meno possibilità di resistenza, sono immerse in un tessuto completamente diverso che favorisce di per sé l'assimilazione, questo è evidente. Non solo la favorisce, in qualche modo la forza di là dove di regge e la premia con i miglioramenti quasi immediati di stato sociale. Abbiamo presente che l'antiminotarismo, in questo caso l'antislavismo fascista, non ha base ideologica, non è un razzismo con base ideologica, non vive i matrimoni misti, anzi li sollecita come una strada privilegiata per l'assimilazione. Quindi il cambio di nazionalità è abbastanza facile. Solitamente è l'uomo italiano che sposa la donna slava e questo provoca un aumento di stato sociale, ma anche quando sono gli uomini che cambiano nazionalità di solito trovano una maggiore possibilità di inserimento. Nelle campagne invece no, nelle campagne il fascismo fa entrare molto male, le campagne sono conservatrici, le campagne sono ancora mondi abbastanza chiusi dove la modernizzazione penetra lentamente. Perché? Perché c'è una poca risorsa, perché sono in realtà ancora arretrate, se volete, e il fascismo non ha le risorse per stravolgere completamente le realtà di campagna nel giro di 20 anni. Forse nel giro di 50 sì, forse un'epoca di boom economico probabilmente sì, ma è un'epoca di stagnazione, come sono gli anni 20, anni 30 no, le campagne rimangono sostanzialmente quello che erano prima. Quindi da qualche parte mistilingui, dall'altra parte compattamente sloveni e croati. Questo nonostante ci sia un flusso migratorio di parecchie decine di migliaia di persone, che noi sappiamo, non sappiamo esattamente quanto, ma sappiamo certamente che non sono venite croate perché vanno in Slavia, ad esempio. No? Quindi, visto dall'esterno, questo progetto di modifiche etniche alla fine degli anni 30 è un fallimento. E se noi guardiamo semplicemente i censimenti, vediamo che il numero, la numerosità della popolazione all'Oglotta è abbastanza simile all'inizio degli anni 20 e alla fine degli anni 30. Poi all'interno, naturalmente, la situazione diversa. È una, le componenti nazionali slovene e croate sono state decapitate dalla loro classe dirigente, che non è una cosa da poco, non ammazzati tutti, ma sono cacciati fuori evidentemente, quindi il profilo è cambiato. ci sono state offese gravi, naturalmente si aprono delle ferite molto profonde, ma a livello di numerosità è un fallimento. E facciamo un passo in avanti, andiamo nella fase della seconda guerra mondiale, alla fase dell'antifascismo, diciamo che si fa resistenza, e in particolare alla questione di come questo antifascismo nella zona di Fiume e dintorni, diciamo così, si divida molto presto sulla base delle suddivisioni, appunto, delle comunità nazionali oltre che politiche, e cioè le anime delle diverse lingue, dei diversi orientamenti di questo antifascismo faticano a parlarsi. Perché? Perché molto presto si apre la partita di che cosa fare di questo confine. Il confine lo manteniamo o lo spostiamo? A guerra finita. Ed è un tema, questo, che troviamo molto simile sul nostro territorio, dove le due resistenze, che è giusto chiamarle plurale, quella di lingua italiana e quella di lingua tedesca, faticano molto presto a trovare punti di contatto, di dialogo, perché la questione è cosa fare quando il fascismo e il nazionalsocialismo saranno sconfitti. Il confine del Brennero non si tiene o lo si mette in discussione attraverso il principio dell'autodeterminazione? E mi pare che anche l'universo del comunismo internazionale, diciamo così, che quindi avrebbe dovuto porsi al di sopra delle divisioni nazionali in nome dell'internazionalismo, risenta di questa questione nazionale e nazionalistica. Ecco, in che modo? Ecco, questo è il punto. Come sempre, la storia è maledettamente più complicata degli schemi binari, no? O perlomeno nella realtà teriatica è un pochino più complicata. In questa realtà, tu dicevi, ci sono gli italiani e ci sono i tedeschi, no? Va bene. E nella realtà più complicata c'è un movimento di liberazione italiano, c'è un movimento di liberazione jugoslavo, di un altro, ma poi ci sono i comunisti. I comunisti sono un po' di qua e un po' di là, che vorrebbero fare la ponte e invece vengono schiacciati, ma sono un altro po' di riferimento. E poi i fiumi sono gli autonomisti. Quindi un gioco a quattro, maledettamente complesso. Fino alla fino all'estate, ecco, diciamo nel 1944, l'estate del 1944, si può parlare di due movimenti di liberazione, parliamo di tutta l'Adriatica, di tutta l'Adriatica. Il movimento di liberazione italiana e il movimento di liberazione sloveno croato, che sono due poli distinti, che si riconoscono come tali e hanno rapporti, talvolta conflittuali, talvolta di collaborazione. Questo però non dappertutto, no? Questo vale per la parte occidentale della regione, cioè per Trieste e per Gorizia. Nella parte centrale, l'Istria e Fiume, non esiste un movimento di liberazione italiana, non ha la forza di costituirsi. Esistono soltanto il movimento di liberazione sloveno e croato. A Fiume i comunisti non hanno la forza di fare qualcosa di autonomo, fanno riferimento fin dall'inizio alle strutture del movimento di liberazione croato. Gli autonomisti sono antifascisti, fanno una rete cospirativa, ma non fanno resistenza. Quindi vedete, è già un po' più articolato. A partire dall'autunno del 1944 la faccenda si complica ulteriormente. Perché i comunisti italiani, là dove sono presenti, e cioè nel Friuli orientale, a Trieste e Gorizia, escono dalle strutture del movimento di liberazione italiana. Per una serie di ragioni internazionali abbastanza complesse, gli accordi che erano stati fatti tra i due movimenti assistenziali saltano, i comunisti entrano nelle organizzazioni del fronte di liberazione sloveno, in quelle croate c'erano già. E quindi il Partito Comunista si sposta all'interno delle stanze di Jugoslavia. A questo punto che cosa abbiamo? Abbiamo nella parte occidentale della regione, Trieste, Gorizia e Friuli orientale, dei piccoli nuclei di resistenza italiana, i comitati di liberazione nazionale, fatta dalle forze politiche antifasciste meno i comunisti, che erano la forza principale. Dall'altra parte un fronte di liberazione sloveno e croato che ingloba anche i comunisti italiani. Questa contenzione notevole all'interno dello stesso movimento comunista, però di fatto è così. Con gli autonomisti che sostanzialmente rimangono a guardare, succede quello prima che vi ho detto prima, questo tentativo di rapporto con un movimento di liberazione che però fallisce. Ecco quindi che quando si arriva alla soluzione, i fronti sono complessi. Da una parte c'è un fronte resistenziale italiano, possiamo dire, dall'altra parte uno slavo comunista. All'interno di quello comunista ci sono sia i comunisti sloveni che quelli croati e quelli italiani, ma quelli italiani in posizione di netta subordinazione. E all'interno di questa vicenda dei comunisti mi sembrava particolarmente significativa quella dei comunisti, stiamo già un passo più avanti, dopo il 45, dei cosiddetti monfalconesi, che ti chiederei così di riassumere brevemente. Perché certo. È una questione piuttosto interessante, cioè questi operai, in particolare provenienti da Monfalcone, dai cantieri riuniti dell'Adriatico, con una forte presenza comunista, che decidono negli anni, nell'immediato dopoguerra, di contribuire alla creazione del socialismo in Jugoslavia, e quindi si spostano, fanno questo che viene definito il controesodo, cioè si spostano verso est, vanno in Jugoslavia e subiranno delle vicende piuttosto tristi. Allora, come vi ho appena accennato, a partire dall'autunno del 44 i comunisti italiani della regione Giulia si staccano dal movimento di liberazione italiano, entrano in quello sloveno croato e da quel momento si battono per l'annessione alla Jugoslavia in quanto Stato comunista. Questo continueranno a fare anche nel dopoguerra. Nel dopoguerra c'è una fase di pandemia, la guerra finisce nel aprile, nel maggio, anzi della regione del 45, ma il trattato di pace entra in vigore appena nel settembre del 47, quindi c'è una fase di interregno, una fase in cui non si sa come andrà a finire, evidentemente. Parte della regione Adriatica occupata dagli anglo-americani, Trieste e Gorizia, il resto delle truppe jugoslave. Cosa fanno i comunisti? Allora, i comunisti si battono in tutti i modi per l'annessione in Jugoslavia, dove lo fanno? Dappertutto, quindi sia nella zona A d'occupazione anglo-americana che nella zona B d'occupazione jugoslava. All'inizio è così, si mobilitano per l'annessione in Jugoslavia socialista. Poi le cose vanno diversamente. Nella zona di occupazione di Jugoslavia, a cui rientra anche Fiume, i comunisti cominciano ad avere qualche dubbio. Qualche dubbio perché l'impatto con la realtà del regime è un po' diverso da come se lo immaginava, non entriamo in dettagli. Reciprocamente sia comunisti italiani che comunisti jugoslavi si accusano reciprocamente di non capire cos'è l'internazionalismo, di essere nazionalisti. Chi ha ragione? Probabilmente nessuno dei due, o tutti e due, evidentemente. Sono due modi diversi di intendere nazionalismo e internazionalismo. Fatto sta che si capiscono sempre di meno. La maggiore concentrazione operaia della zona di occupazione jugoslava è Fiume. Nell'estate del 47, secondo le fonti jugoslave, le autorità popolari prendono atto con sconcerto che 7.000 operai se ne sono già andati in Italia. Cosa vuol dire? Vuol dire che la politica ufficiale della politica della fratellanza italo-jugoslava, che mirava appunto di inglobare la classe operaia italiana, sta scricchiolando fortemente. Difatti, quando partirà il fenomeno dell'esodo subito dopo, noi vedremo che delle principali concentrazioni operarie, quella di Fiume e quella di Pola, la maggior parte degli operai italiani se ne va, perché denuncia dall'esperienza concreta del comunismo. Contemporaneamente, però, a Trieste e a Gorizia, a Monfalcone, dove ci sono invece gli alleati, la classe operaria continua a battersi per l'Jugoslavia. Continua a battersi in maniera molto dura, con scontri anche quotidiani contro i nazionalisti, contro i fascisti, insomma è una lotta molto dura. Tant'è che nel 1947, quando entra in vigore il trattato di pace, Trieste rimane ancora sospesa per aria, ma la provincia di Gorizia, soprattutto a Monfalcone, la grande concentrazione operaria, torna in Italia e i comunisti non ci stanno. Ormai l'Italia è il nemico, è stata considerata il nemico negli anni precedenti contro la quale ci siamo tutti, quindi però non c'è più posto. No? Si sono scontrati quotidianamente, adesso i fascisti arriveranno la polizia e i carabinieri, figuriamoci. No? Ecco allora che prende corpo l'idea di trasferirsi oltre confine, di trasferirsi in una Jugoslavia accogliente, socialista, in cui la politica ufficiale è quella della fratellanza italo-jugoslava, e che ha un bisogno disperato di classe operaria. Ha un bisogno disperato di classe operaria perché? Beh, perché è uno Stato che sta facendo una rivoluzione proletaria, ma non ha proletariato. Perché non è uno Stato industriale, è uno Stato che tantissime, cioè piccolissime concentrazioni di classe operaria. Quindi la politica della fratellanza italo-jugoslava, che è stata concepita ancora nel 1944, che idea aveva? Cerchiamo di portare in Jugoslavia la grande classe operaria giuliana di alta preparazione tecnica e alta formazione politica. No? Poi le cose vanno un po' diversamente, ma questi operai comunisti di Falcone dicono andiamo in Jugoslavia. Dove vanno? Vanno a Fiume. Quando Fiume nel frattempo si sta svuotando degli italiani e vengono accolti a braccia aperte. Lasciano detto nelle loro memorie, ci hanno messo nelle case dei signori profughi. No? I pochi se ne sono andati e la città è vuota, quindi mettono loro posti di lavoro quanti ne vogliono, evidentemente. non dico pagate bene perché ci sono pochi soldi, però insomma trattate bene, ecco, trattati bene, portati in palma di mano, naturalmente quindi sono contenti. Finalmente sono a casa loro, cioè stanno costruendo il socialismo, stanno lavorando non solo per la propria, ma se stessi, i capi operai sono diventati dirigenti dell'azienda perché hanno responsabilità, quindi il partito del socialismo, un po' di fame e pazienza, no? Ecco, su questo sogno si infrange una storia. Capita qualche volta nella storia, arriva giù, spara tutto, no? Nel 1948 la crisi del Comfort. La crisi del Comfort, rottura fra Stalin e Tito. La Jugoslavia viene cacciata dal Comfort. Stalin dice che Tito ha torto. E questo è un bel problema. Allora i comunisti jugoslavi, i figli del comunismo jugoslavo, siccome vedono una situazione un po' complicata da spiegare obiettivamente, convocano una grande assemblea di tutti i cosiddetti bufalconesi, in realtà non sono solo bufalconesi, ma dico tutti gli operai italiani, ecco, in un cinema di Fiume, e cominciano a spiegare loro perché Tito ha ragione. Ma se Tito ha ragione, qual è la conseguenza di voi? Se Tito ha ragione, qualcuno ha morto, ma Stalin è morto. Allora provate a dire ad un operaio stalinista che per tutta la vita ha combattuto per Stalin che Stalin è tolto, come queste la chiesa e l'internet, no? E la reazione è esattamente quella, no? Che cosa fanno? Appena capiscono, si alzano in piedi, cominciano a cantare la bandiera rossa all'internazionale all'italiano, se ne vanno sfidando per le vie della città e già Stalin. E questo lo fa, per loro stalinisti, mica sono gli Stalin. Risultato, una mattina dopo, alcune decine dei loro dirigenti vengono presi, impacchettati e mandati in campo di rieducazione di misura lunga, detta Goliotto, con misura calda, scusate, non entro nei dettagli perché sono piuttosto orripilanti. Ecco, se vi piacciono le cose orribili, leggete le memorie, quelle poche pagine, comprò i banchi, ho detto, vi fate vedere questo un campo di rieducazione. E gli altri rimangono senza la dirigente, ma senza più speranza, non c'è più posto per loro. Mentre prima erano considerati italiani onesti buoni, questa è la definizione ufficiale, adesso sono considerati nemici del popolo, i peggiori, peggio dei fascisti, perché sono i veri nemici pericolosi che mettono in discussione l'essenza stessa del sistema titolista. E quindi si devono andare. E quindi anche loro prendono una via d'esilio, ma ci mettono un po' per tornare, evidentemente. Quando tornano, come verranno accolti in Italia? Braccia aperte, non è per idea. C'è una memoria di uno che dice torna, sono tornato, sono arrivato al posto di confine, mi ha accolto un carabiniere e mi ha detto ti è piaciuto, è il paradiso socialista. E avanti e avanti, no? Fondamentalmente. I dirigenti se la passano anche peggio. Questi sono gli operai, i poveracci, no? I dirigenti si fanno lunghi anni di campo di rieducazione, qualcuno non sopravvive, la maggior parte sì, e poi escono piegati completamente nel fisico, perché distrutti da quello che hanno provato, anche psicologicamente, perché sono delle cose terribili. Tornano in Italia negli anni 50 e dicono, beh, almeno qui ci accoglieranno come eroi, come quello che abbiamo passato. E invece no, perché mentre loro stanno nel campo di rieducazione, è molto stanco. Al posto di Stalin è arrivato Khrushchev e Khrushchev ha migliorato i rapporti con Tito. Quindi anche il Partito Comunista Italiano ha avuto l'ordine di non combattere più i Tito fascisti, ma di riallacciare i rapporti con il Partito Comunista. E allora questi disgraziati tornano, invece che essere accolti come noi, vengono messi in soffitta, perché sono assolutamente scomodi. Non si può più parlare male di Tito. Quindi allora è una storia di un fallimento epocale, hanno fallito tutto. E l'ultimissima cosa, poi lascio volentieri la parola a voi, e la conclusione un po' dei decenni successivi, non degli anni, una manciata di anni sostanzialmente, successivi alla Seconda Guerra Mondiale, è che lì in maniera molto rapida si determina veramente questa nazionalizzazione del territorio, cioè là dove, se non sbaglio un po' la conclusione anche che trae questa, là dove il fascismo possiamo dire aveva fallito, cioè il progetto di italianizzazione di questo territorio non era avvenuto sotto il fascismo, nonostante le violenze, eccetera, beh, in maniera piuttosto rapida e con un successo evidente, invece ci riesce la Jugoslavia di Tito, cioè dall'altra parte ovviamente, cioè a croatizzare, a jugoslavizzare questo territorio. E quindi cambiando in maniera forse definitiva, ecco, il profilo così culturale, nazionale, etnico-nazionale di questo territorio. ecco, non traiamo nella conseguenza che i fascisti erano meno cattivi, no, assolutamente, evidentemente. Traiamo un'altra conseguenza: il totalitarismo fascista era incompiuto, era un regime che certamente ambiva al totalitarismo, no? Però ci arrivò fino a un certo punto, ecco, per tutta una serie di ragioni che richiederebbero altre discussioni. Il totalitarismo staliniano nella versione turista era un totalitarismo compiuto, era in grado di entrare in tutte le vie della società, anche perché era rivoluzionario, non conservatore. Quindi faceva saltare assolutamente tutto, le cellule minime della società, tutto viene cambiato, tutto viene rivoluzionato, e per alcuni non c'è posto. Fra quelli per cui non c'è posto c'è l'italiano, ad esempio, per quello c'è assolutamente posto. L'esodo dal fiume è abbastanza precoce, è un esodo silenzioso. In quegli anni sono quasi contemporanei, l'esodo dal fiume e l'esodo dal Pola. Sono fra il 46-47, grosso, quello con le code, il fiume ancora con il 48, no? Mentre l'esodo dal Pola è visibilissimo, se voi in qualsiasi momento volete ricostruire la storia dell'esodo, avete bisogno di immagini, ricorrete sempre l'immagine dal Pola, perché sono uniche che abbiamo, c'era il cinegiornale e quindi si vedeva, si poteva fare, c'era gli americani. Da fiume non avete nulla, non c'è neanche un'immagine. Nessuno sapeva più che il fiume esistesse. Cioè, il fiume esce completamente dalla consapevolezza degli italiani nel 1943, una città sparita, no? Da questa città sparita la gente comincia ad andare via presto, già nel 45, nel 46, nel 47, nel 48 vanno via gli ultimi, ecco, fondamentalmente. Rimane qualcuno, rimane ancora formalmente il linguismo, fino al 1953. Nel 1953 c'è l'ultimo sussulto della crisi di Trieste, una crisi che vede schierate truppe italiane che sbarrano i confini per alcuni mesi. Quindi partono dei pogrom a fiume contro il popolo che è rimasto di presenza italiana. Un paio di migliaia di italiani e un po' di insegni bilingui. Tutto questo viene cancellato, per cui ogni traccia di bilinguismo visivo scompare. La città di Fiume in quanto tale è già scomparsa. Nel senso che fin dall'immediato dopoguerra il comune di Fiume, già italiano, viene unito al comune di Sciusa, già jugoslavo, e viene creata l'unica città di Vinca, quindi una città doppia. No, con due pole. Da questa città ogni traccia di immagine di lingua italiana scompare dopo il 1953. Ed è una nuova città Rijeka, che cresce moltissimo, diventa una delle principali città della Croazia, per più di un grande porto di Jugoslavia. Alla fine dell'epoca jugoslava arriverà a 200.000 persone, quindi una grande città croata, e quindi c'è assolutamente nessuna traccia di presenza italiana. Non perché non ci sia più nessun italiano, qualche migliaio è rimasto, ma è ben nascosto. Nel senso che, diciamo, che non è incentivato a manifestarsi in pubblico. Ha alcuni presidi culturali, scuole, teatro, club culturali, ma tutto assolutamente chiuso e autoreferenziale, no? Senza nessuna influenza, è non visibile dal resto della città. E questo fino ad oggi, o perlomeno fino a due mesi fa. Fino a due mesi fa perché? Dunque, la città di Rijeka ha conosciuto una grossa crisi dopo la fine della Jugoslavia, perché non è più il porto della Jugoslavia, ad esempio, quindi ha una grossa crisi economica, e la transizione al capitalismo non è facile, come sapete. Le industrie di Stato, che erano quelle che funzionavano, Fiume, la cantieristica, la siderurgia e la chimica, sono collassate, no? Così come il mondo attuale. Inoltre, parte della popolazione di serbi, cioè sono andati, quindi è una situazione difficile, ma Fiume ha buoni amministratori. A buoni amministratori che hanno avuto un'idea, dal momento che la Croazia è entrata in Europa, bene, usiamo questa Europa, no? Per cui Fiume diventerà capitale europea della cultura nel 2020. In nome di che cosa? Allora, quadri di Leonardo da Vinci non ci sono, ecco, altre grandi strutture architettoniche, tesori artistici, no, cosa c'è? Ma la carta sul cui hanno giocato è la multietnicità e il multiculturalismo. Qual è il multiculturalismo? Beh, in effetti è ancora una città jugoslava da un certo punto di vista, seppur le varie altre componenti in parte sono depauperate, però è ancora una città in cui ci sono croati, sloveni, ancora qualche serbo, albanesi, montenegrini, bosniaci, qualcosa è rimasto. Ungheresi no, però c'è l'eredità del passato ungherese. E dell'Italia? Beh, qualche italiano c'è, ci sono talmente pochi che non danno fastidio a nessuno, quindi si può che trattarli bene. E c'è l'esigenza di ricollegarsi finalmente al passato. Guardate che fino a 2-3 anni fa la città di Rijeka non voleva sentire parlare del collegamento con quella che era stata il fiume dei secoli precedenti. Era la nuova grande città croata. Adesso no. I figli di quel passato possono essere interessanti. Questo mi scrive sul piano simbolico. Sul piano simbolico, qualche mese fa è stata approvata la decisione di affiggere agli angoli dell'estate dei cartelli in lingua italiana, però toponomastico originale in italiano, con gli autonomi italiani, vari, perché c'erano stati vari all'epoca, no? Io dopo gli mesi che non metto piede a fiume mi dicono che hanno cominciato ad attaccarli. Serve a qualcosa? Sì, certamente è un simbolo, no? Non serve tanto che gli italiani mi sono là, gli italiani che sono là sono pochi. Ufficialmente censiti della comunità italiana dovrebbero essere circa 10.000, dei quali 7.000 reali, gli altri probabilmente no, quelli che si fanno vedere sono circa 2.000, essendo però una popolazione anziana, essendo la sede della comunità secondo piano di un meraviglioso palazzo senza ascensore, quelli che arrivano fino alla sede della comunità sono molti di meno. Ecco, però ci sono, insomma, sono portati lì, per carità. Insomma, l'immagine, perlomeno del centro storico della vecchia fiume, comincia ad avere qualche rapporto con il passato. È qualcosa, sì, è qualcosa, è quello di cui ci si deve accontentare. Ricostruire il passato è sicuramente possibile, evidentemente. Ci sono delle fratture storiche. Quella del dopoguerra nella regione Adriatica è una frattura storica, è la frattura più grande dall'epoca della romanizzazione. Quella che tecnicamente chiamiamo l'italianità adriatica, sulle sponde orientate adriatiche, è finita storicamente. È rimasto qualche rimasuglio, qualche reliquia, diciamo così, di presenza di italiani, ma rimane qualche traccia del passato, anche se le tracce del passato vengono riscoperte, ovviamente è già un fatto positivo, perché rompe quelle pretese di monolitismo nazionale che sono stati una delle grandi sciagure del concetto. Ma interessante questo riferimento alla attualità e al potere, diciamo così, anche del marketing turistico magari, no? Questa idea di attrarre un turismo europeo, la giornata, appunto l'anno, la capitale europea della cultura, potrebbe essere anche, come dire, uno strumento per ricucire vecchie frature. Io a questo punto lascio la parola a voi, c'era un signore che già si era annunciato prima, molto volentieri, non so se c'è un microfono. Per questo è volante. Siamo di questo. Posso? Fai tu, vado io. No, guarda, c'è. Ti ringrazio. Grazie. Che ci vedi lì? Ecco, premesso che io sono nato a Fiume nel 1930 e ci sono rimasto fino al 1946, volevo chiedere alcune cose. Quando si è costituito lo Stato Libero di Fiume, con il primo presidente Zanella, il principale sostenitore di questa possibilità che poi sia avverata è stato nell'ambito degli alleati il presidente americano Wilson, perché voleva fare di Fiume la città sede stabile della Lega delle Nazioni, quello che oggi è l'ONU, no? Ora mi domando, negli sviluppi successivi che ci sono avuti, lui non ha mai più difeso questa sua idea quando quel fiume è andata sotto l'Italia, eccetera? Si sa qualcosa? Sì, c'è un problema, che Wilson è morto. Quindi non poteva fare più nulla. Allora, Wilson era stato fortemente contrario all'applicazione del Patto di Londra. Il Patto di Londra prevedeva l'annessione all'Italia di tutti i territori fino allo spartiacque attivo. In più, il governo italiano nel primo dopoguerra aveva chiesto anche Fiume. Questa può sembrare una follia, no? Tenete presente il quadro. All'inizio del dopoguerra, al 1918, l'Italia, da un punto di vista diplomatico, è molto più debole del 1915. Può sembrare un paradosso, perché appena vinto la guerra, ma è così. Per almeno tre ragioni. Allora, la prima, che la guerra è finita, quindi l'Italia lo serve. Banalmente. Mentre prima di entrare in guerra serviva, poteva essere la carta vincente, dopo che finita lo sapete, e questo è politica estera. Secondo, le potenze che hanno firmato il patto di Londra non sono più le stesse, non c'è più la Russia, che era quella che aveva garantito per gli slavi, ma la Russia non c'è più. Terzo, nel punto della Russia ci sono gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti non sono una potenza reale nella grande guerra, sono una potenza associata, quindi non vincolate ai trattati, quindi non vincolate al patto di Londra. Allora, in questa situazione di maggior debolezza, l'Italia, invece di ridimensionare le pretese, le eleva aggiungendo anche Fiume, perché sono diventati matti, in parte sì, dal punto di vista della politica, ma c'è una ragione forte, che non è una ragione solo italiana. Durante tutta la guerra, in tutte le opinioni pubbliche dei paesi coinvolti, c'è un processo di radicalizzazione delle aspettative. Che cosa vuol dire? La guerra doveva durare 6 mesi, dura 5 anni. Le opinioni pubbliche non ne possono più, evidentemente, maledicono il momento in cui la guerra è cominciata. All'inizio c'è entusiasmo, poi maledicono il momento, no? Come può finire? Tutte le pubbliche opinioni si attendono, dopo una guerra del genere, una vittoria che in qualche modo ricompensi i sacrifici per quello che è possibile. Ma dopo tutti quei sacrifici, cosa vuole pensare? Una vittoria totale, assoluta, senza limiti, che distrugga completamente il nemico di sempre, che faccia sì che la guerra sia l'ultima delle guerre e che tutti i desideri vengano accontentati. Questo in tutte le opinioni pubbliche, no? Una delle ragioni per cui non si arriva a una pace di compromesso durante le guerre. Spiegate voi il pubblico opinione che si è scherzato, che si torna indietro di 3 anni, so che gli hanno spiegato. In questa radicalizzazione, coinvolta anche la classe politica e l'opinione pubblica italiana, si chiede anche Fiume, ma lì si blocca tutto quello che Wilson è contrario. Solo che Wilson ha un problema, riesce a ottenere dagli altri paesi l'approvazione della Lega delle Nazioni, riesce a ottenere alcuni successi, poi torna in America, ma in America è le sue ipotesi di riassetto globale, le sue ipotesi di creazione della Lega delle Nazioni vengono sconfitte nel Parlamento statunitense. Gli Stati Uniti bocciano la proposta della Lega delle Nazioni, quindi Wilson è sconfitto. È talmente duro il colpo che gli prende un colpo a lui, gli viene un ictus. E poi gli arriverà ancora uno. Quindi nel 1920 Wilson è fuori gioco. E questa è esattamente la ragione per cui si arriva al Trattato di La Palla. Trattato di La Palla è l'accordo diretto fra Italia e Jugoslavia che delimita il nuovo confine. Perché ci si arriva? Perché Wilson, che era stato lo sponsor della delimitazione di Jugoslavia, ormai non c'è più. E quindi gli jugoslavi non hanno più l'autorevole sponda che li protegge. Gli inglesi e francesi ormai sono stufi di guardia di stabilità e dicono Italia e gli jugoslavi mettetevi d'accordo. Ora, quando il peso di una grande potenza è così, è chiaro che l'accordo non è l'Italia. Quindi si fa l'accordo. L'accordo che prevede questo microstato. Questo microstato però non ha in realtà l'Italia. È semplicemente la Jugoslavia che ha rinunciato al Fiume, ha rinunciato alla missione di Fiume, però bisogna, come dire, della foglia di fico, no? Di una soluzione diplomaticamente presentabile. Al grosso problema di spiegare alla propria opinione pubblica che ha rinunciato all'Istria e ha rinunciato al Fiume, nella forma di uno Stato libero, ma non lo difende nessuno. L'Italia dovrebbe essere teoricamente garante, ma in realtà le truppe italiane ancora rimandano la polizia e i carabinieri, lasciano fare i cacicchi che lo ricordano, e durante il colpo di Stato si voltano dall'altra parte. La Jugoslavia, che potrebbe essere teoricamente interessata a difendere lo Stato di Fiume, come Daniela sperava, in realtà lascia fare. Quindi lo Stato di Fiume collassa rapidamente. Wilson ormai non c'è. Poi a proposito degli operai di Monfalcone, di come sono stati accolti quando sono venuti in Italia, a me è successo personalmente quando sono uscito da Fiume nel settembre del 1946, perché lo Stato italiano aveva destinato l'ex Accademia Navale di Brindisi a collegio per i profughi Giuliano Dalmati per non far perdere gli anni scolastici. E io con tutti i miei coetanei eccetera siamo imbarcati in questo treno mezzo merci, mezzo tra rotta militare, insomma, che ci ha messo 12 ore per arrivare fino a Verona. A Verona c'erano le croce rossine e noi non avevamo mangiato niente, è stato un viaggio 36 ore ci abbiamo messo per arrivare da Fiume a Brindisi. Alla stazione di Verona le croce rossine che portavano dei vassoi con qualche rifornimento per noi, per darci da mangiare, sono state brutalmente, diciamo, aggredite, impedite, va. hanno evitato i comunisti, gruppi di comunisti, eccetera, hanno rovesciato tutti i vassoi, eccetera, perché se noi venivamo via da Fiume voleva significare che eravamo dei fascisti e quindi il comunismo, che era il principale avversario del fascismo, ci voleva impedire. Sì, questo è successo in varie parti d'Italia, sono stati. Poi un'altra cosa che volevo chiedere è che Bertini era un partigiano italiano, grande amico del partigiano Tito. Però Bertini, a quanto mi risulta, anche da scritti e dalla storia, non ha mai alzato un dito per suggerire a Tito di fare qualcosa perché le foibe non si trovassero. Quelle erano già successe prima. Com'è? Quelle erano già successe prima, durante la resistenza. No, ma pare che anche durante. Perché il periodo delle foibe è durato fino al 40, dunque, 45, 46, 44, 46. Allora, il grosso delle stragi è la primavera del 45. Per la zona di Fiume noi abbiamo uno studio molto buono fatto dalla Società di Studi Fiumani insieme agli storici croati e hanno fissato l'ordine di grandezza delle vittime attorno alle 500 persone. Questa è la data. Poi ci sono state delle uccisioni anche dopo, ma molto meno a livello singolo, a livello individuale. Ecco. Ci sono stati dei processi a carico di persone che in qualche modo cercavano di cospirare contro il regime, giovani soprattutto, ragazzi di scuola, qualche prete, però questi processi hanno avuto un grande risultato, no? Condanne pesantissime, ragazzi di 15 anni condannati a 14 anni di lavori forzati, per capirsi. Però dopo 3-4 anni li hanno messi fuori, perché non interessava niente. Molto più pericolose erano invece le liquidazioni per via amministrativa. Non so se conoscete la terminologia, la tipica terminologia delle truppe staliniane, no? Da una parte ci sono i grandi processi farsa, che però sono grandi cancrasse mediatiche, e poi invece la polizia politica procede a far sparire le persone contro la truppe spariscono. E parte degli autonomisti, degli antifascisti, anche mazziniani, spariscono così. Però questi sono poi omicidi singoli, il grosso della primavera del 45. Ci sono altre domande? Sì, qua c'è qua. Ma una domanda forse banale. Vedete che vedo il microfono così sentono tutti. Forse si sente la fondo. A quando risalgono le origini italiane di Fiume? La domanda non è banale. E la risposta in generale? E la risposta è chi lo sa? No, allora, è una domanda bellissima. Allora, qui abbiamo il nucleo di quella che noi chiamiamo l'italianità adriatica. L'italianità adriatica è la presenza linguistica, culturale italiana sulla sponda orientale dell'Adriatico. Questa presenza ha delle origini miste. Da una parte è continuità dell'insediamento romano dall'epoca della romanizzazione, quindi dal secondo secolo. Soprattutto lungo le coste, i centri urbani sono quasi tutti i centri urbani di fondazione romana, no? Che poi diventano comuni medievali italiani, ecco, di lingua romanza, non necessariamente veneta, Avevano una lingua romanza propria, vi ho detto proprio dematico, no? Che poi progressivamente per il flusso di Venezia viene abbandonato a favore del Veneto. Questa è la storia di Tageste, cui si parlava friulano fino al 1700, di Pola, di Zara, di Spalato, di Ragusa, quando più o meno tutte la stessa sorta, no? Fa eccezione Fiume perché in epoca romana esisteva una città che si chiamava Tarsalica, di cui ci sono ancora i resti nel centro della città. Poi questa città viene distrutta a seconda delle versioni fra il VI e l'VIII secolo, non sappiamo bene da chi. Ci sono varie leggende, però la leggenda un po' trono di spade, non è che riusciamo a andare molto oltre. Poi, nelle fonti, alcuni secoli dopo, quindi c'è un buco in mezzo, compaiono cenni ad un nuovo centro abitato, che sta esattamente al posto di quello precedente, ma non si chiama Tarsalica. Viene chiamato Ad Flumen, o Terra Sancti Viti, oppure Rica, no? Rica vuol dire fiume, in croato. Cos'è? È un centro nuovo, poi la ripresa del centro vecchio? Non lo so, sono evidentemente. Chiaramente gli storici fiumani di lingua italiana durante il docente, hanno detto sono i vecchi abitanti di Tarsattica che spariti per tre secoli e qui improvvisamente non si sa perché sono riemersi, che hanno rifondato la città. I croati dicono ma neanche l'idea, lì sono tutti i croati, sono i croati che hanno fondato la città. Chi ha ragione? Non lo sappiamo. Ma questo ha appassionato generazioni di storici. A noi no, a noi ci interessa più un'altra cosa. Ci interessa il fatto che tutti i centri urbani lungo la costa orientale dell'Adriatico sono italiani. Perché? Allora, nel caso che so, di Zara, di Spalato, di Pola, è evidente che c'è la continuità, no? Nel caso di Fiume no. Allora, cosa vuol dire? Che nel momento in cui si crea un centro urbano, quello è sottoposto a molteplici influenze. L'influenza del contesto di terra, tutto quello che sta intorno, e il contesto fondamentalmente croato, le logiche del continente, e l'influenza del mare. L'influenza del mare è moderata, perché dall'antichità fino a 1700-1800 la ricchezza, quindi anche la civiltà, arrivano oltre il mare. Quindi nell'epoca romana e nel Medioevo l'influenza del mare, l'influenza dei traffici, l'influenza degli scambi di idee e di persone, è fondamentalmente l'influenza italiana. Allora, le prime fonti sul Fiume non dicono che cos'è la città, ci danno soltanto le terminologie, no? Poi, quando comincia a esserci qualche fiume in più, qualche fonte in più, si scopre che la classe dirigente è già in maggioranza di lingua di origine italiana e che le persone, ma siamo nel 300, ormai prima di un sacco, eccetera, parlano di antropologia. Perché noi abbiamo un famoso documento che si chiama il Calmiere del Pesce, che è semplicemente il costo minimo, anzi il costo massimo, che i moltegai potevano fare i pesci vendoli, no? È descritto in volgare, per farsi capire come era italiano, no? Quindi cosa vuol dire? Che delle varie influenze, l'influenza del mare, cioè l'influenza italiana, è importante. Man mano che un centro si sviluppa, diventa sempre più italiano. Anche se le origini sono sconosciute. Se sono di continuità è evidente, ma anche se sono sconosciute, man mano che cresce è una città di mare, quindi è una città italiana. Grazie per la domanda. Quindi l'esodo da Rijeka ha riguardato, al contrario di altre città della costa, italiani che erano magari di lingua ungherese, come detto prima. No, non di lingua, ormai. I fiumani erano di lingua e cultura italiana. E poi c'erano anche alcuni migliaia di croati. Abbiamo visto il censimento del 1910, no? 25.000 di lingua italiana, 13.000 di lingua croata. Questi 13.000 di lingua croata durante il fascismo spariscono quasi tutti. L'esodo riguarda il grosso della popolazione italiana, della popolazione fiumana, che era fatta da persone di lingua e culture, soprattutto di sentimenti italiani, al di là della loro origine. L'italianità adriatica ha un'origine composita, in parte etnica e in parte frutto di processi di integrazione. Di tutti questi apporti che abbiamo detto, no? Essendo città di mare, confluiscono persone che vengono dall'entroterra, che hanno la ricchezza e vengono dal mare. Per cui trovate persone delle origini più varie, in particolare città come Trieste, come Fiume, che hanno porti franchi. E quindi trovate greci, trovate armeni, trovate turchi, trovate ebrei, trovate tedeschi, a Fiume trovate ungheresi, trovate tutto evidentemente. Tutti questi però si nazionalizzano in senso culturale e in senso italiano. Quindi i nomi che poi portano i fiumani sono i più vari. Se voi guardate ad esempio i nomi della pattuglia di giovani radentisti del 1910, che mettono anche le bombe, per capirsi, e sul palazzo del governo inglese, poi fanno tutti i volontari radenti della Grande Guerra, finiscono quasi tutti i bici. Cosa vuol dire? Che sono di origine croata, specialmente, ma sono italianissimi, no? Quindi al di là dell'origine etnica, poi questi sono tutti. Perché sottolineo questo dato? Qui forse le polemiche non sono arrivate in altre parti d'Italia, sì, fino a Roma sono arrivate. Ecco. Perché c'è tutta una discussione molto stupida attualmente sul fatto se l'esodo, tutte queste vicende terribili delle terre adriatiche sono state pulizie etniche. Il termine di pulizia etnica non è applicabile al gruppo nazionale italiano e al gruppo adriatico orientale, perché non è un'etnia. È un gruppo nazionale di origine composita. Buona parte degli irredentisti adriatici non era di origine italiana. Wilhelm Oberdan, protomartire, non era di italiana. Così Zlatafest, Uparic, Sivias, Brunner, Miljanovic, Buric, no, evidentemente erano di tutto meno che di origine italiana, ma erano italianissimi, sono parte della parte. No? Non c'era stata anche una slavizzazione dei nomi da parte degli austro-ungheresi? In parte sì, nella realtà di campagna soprattutto. E questo è un discorso che vale anche per l'Alto Adige, c'è stato fatto anche per l'Alto Adige, per alcune valli dell'Alto Adige, no? Voi sapete che in epoca natale burgica i sacerdoti avevano la funzione di stato civile, quindi trascrivevano gli atti di battesimo, c'erano anche gli atti di stato civile, e quindi erano loro che scrivevano i cognomi nella grafia che preferivano. In realtà il diffuso bilinguismo era quindi sacerdote che decideva come scriveva il nome. Cosa scriveva? Scriveva Bun o scriveva Bunic? Dipende. Di solito i sacerdoti erano i corifei dell'idea razionale sovrinegoata. E quindi molto spesso questo poteva accadere. Quindi certamente in alcuni casi è accaduto. Questa è la ragione vada per testo per cui la legge che viene adottata al governo fascista, mi pare del 26, non è una legge che impone il cambio dei cognomi, ma impone la restituzione dei cognomi in una forma ordinaria. Nella provincia di Bolzano come nella provincia della Venezia Giulia. Poi basta la pesca, evidentemente sarà così, no? Però questo dice la legge, no? E poi ci sono le commissioni provinciali che decidono quali nomi erano nomi originali italiani che sono stati invece tedeschizzati o slavizzati, no? Con questi in particolare non so cosa succedeva prima, qui c'era solo la provincia di Bolzano, ma credo, penso che succedesse. Delle province della Venezia Giulia c'erano 4 province, 4 commissioni provinciali, quindi ognuna è penalizzata per conto proprio. Per cui avete casi di membri della stessa famiglia che creano diversi, questo è successo. Sì, anche qui c'è appunto, si parla di restituzione del cognome italiano, in realtà non è una restituzione, ma sono delle traduzioni più o meno fantasiose di Tolomei, che addirittura italianizza dei nomi trentini italianissimi, no? Da Lonera che diventa Loneri, o i cognomi di origine veneta o friulana che finiscono con la consonante, ad esempio Trevisan, troviamo anche questo che diventa Trevisani, quindi è una cosa anche, come dire, al di là dell'italianizzazione dei nomi di famiglia tedeschi, c'è anche questo aspetto qua che è anche un po' ridicolo, diciamo. E questo è il modello che ci ispira anche la legislazione della Svizzera, no? Esattamente. Sì. Sono meglio. Prego. Mi chiamo Tedesco il Luciano e sono figlio dell'esodo. La mia famiglia, noi siamo papà, mamma, nonna e 3 ragazzi, siamo usciti il 12 agosto del 47, quindi tutto da dove? Da Fiume? Da Fiume, da Fiume, sì sì, sono fiumano d'occhio. Quando io dico, mi è capitato qualche volta di dire sono italiano 2 volte, non penso nel nazionalismo ma al patriottismo, che è una cosa che lei mi insegna è ben diversa. Ma io, più che una domanda di carattere naturalmente tecnico, storico, perché non è la mia materia, io sono un po' anziano, quindi parlo con una certa difficoltà e chiedo scusa. Abbiamo tempo. Chiedo scusa per questo. Beh, non tutta la sera, ma in ogni modo. No, volevo semplicemente testimoniare alcune cose per quanto riguarda i rimasti. Io ho visto la mia città dal 47 nel 1968, sono passati 21 anni. Ricordo come l'ho lasciata, eravamo diverse famiglie su, diciamo, un camion, era una bella giornata estiva. La destinazione era Trieste. A Trieste, lei si ricordava, c'era l'amministrazione alleata. E quindi siamo capitati, diciamo, nel Silos vicino alla stazione. Lì siamo stati 2 o 3 giorni. Poi dopo ci hanno mandati al campo di Udine. Papà era impiegato nel municipio di Fiume e lo avevano trasferito a Trento. Quindi la tappa ultima è stata Trento, noi venivamo da una città di mare e non eravamo abituati a vedere queste montagne. La prima impressione è stata quella, oddio, qua ci crolla tutto. Ma indipendentemente da questo, ritorno un po' nella mia città. nel 1968 vedo un amico carissimo, ha qualche anno più di me. Era un operaio, l'ho trovato molto triste, deluso, convinto del socialismo, quello che si riferiva, diciamo così, o a Stalin o comunque a Tito, a quell'esperienza, e mi ha detto: sai Luciano, sono molto deluso. Questo mio amico si chiamava Sergio Vianello e il richiamo che lei faceva prima alla desinenza dei cognomi, non tutti, in Itch, questo probabilmente derivava anche dall'origine, diciamo, del clero che aveva una certa visione, quindi portava l'acqua al suo mulino, per dire. Io ho trovato questo qui molto, molto, molto deluso dell'esperienza che lui e la sua famiglia hanno dovuto subire. Altra cosa che volevo dire, per esempio, io adesso ho preso il suo libro, lo leggerò con molta attenzione e con molta, come dire, perché mi emoziono quando parlo della mia città. Scusate. Volevo dire semplicemente questo, che ricordo che, e sono, diciamo, ricordi personali, che papà mi portava a sentire e a vedere le opere al teatro comunale Giuseppe Verdi di Fiume. E io da bambino, diciamo così, mi affacciavo su questo, diciamo, golfo dove c'era l'orchestra, eccetera, eccetera. Lì è passato Arturo Benedetti Michelangeli, un grande pianista che abbiamo avuto qui negli anni 60, 70, 80 al Conservatorio di Bolzano, e venivano da tutto il mondo, e quindi lui è passato e ha fatto un suo concerto a Fiume. Poi altre cose, sarò breve e adesso chiudo. La prima donna radiotelegrafista d'Europa era una donna, quindi le donne, diciamo, da noi avevano, godevano di una certa libertà, probabilmente frutto della cultura e dell'ascito ungherese e austriaco, eccetera. E quindi c'era, ecco, chi era questa persona? Una donna che adesso il nome non ce l'ho, e quindi forse lei riuscirà a trovarla adesso. Comunque da qualche parte sicuramente l'ho letto, diciamo, nei vari libri che nel frattempo, in questi anni, dopo l'istituzione del giorno del ricordo, diciamo, c'è stato un fiorire di letteratura in questo campo. E ricordo che però questo teatro, il progettista, è quello che ha fatto lo Staatsoper di Vienna e il teatro dell'Opera di Stato di Budapest. E lo stesso progettista è quello che, diciamo, ha fatto anche il teatro di Fiume. Quindi la mia, sono piccoli ricordi, eccetera. Io ricordo che con questo camion lasciavo la mia città, mi giravo indietro e vedevo, diciamo, il mare che si rimpiccioliva, finiva lì, che poi dopo si saliva e siamo scesi giù a Trieste. Quindi ripeto, io sono italiano di nascita due volte e mi sento mortificato quando la Banca d'Italia, anche adesso attualmente ho dovuto andare per un certo documento, loro, e c'è una legge dello Stato, lei mi insegna, dove basta dire il luogo di nascita. A me mi fanno nascere in Serbia, ma io in Serbia la conosco geograficamente dal mappamondo, ma io non ci ho mai messo piede, oppure nel Montenegro, e fino a qualche anno fa nell'arma dei carabinieri, poi adesso rimediato, il software non era ancora aggiornato per quanto riguardava l'osservanza di questa legge. Lo so perché ho sposato una donna che vive nella memoria dell'isola d'Istria, che ogni volta con l'Inps, con gli uffici pubblici, ha sempre lo stesso problema, per cui le risulta nata in stato straniero in Slovenia. Lei si bufalisce ovviamente, quindi conosco bene la situazione. Quindi io il codice fiscale dove la targa automobilistica di Fiume era fu. Quindi è fu defunta. Grazie. Semplicemente la potenza di Google. Questa signora, prima radio telegrafista, si chiama Maria Barbieri. Maria Barbieri si chiama. Grazie. Prego, prego. Grazie, Giorgio. Bene, se non ci sono altre domande, io. Ce n'è un'altra. Ce n'è un'altra. Se c'è tempo. Sì, penso 5 minuti li abbiamo. Sì, ma non è una domanda. Sono un po' imbarazzato per questa cosa, ma approfitto della caratura dello storico. Cioè la storia è un fluire di mutamenti geopolitici. Secondo lei, cioè la sua opinione su questa domanda che io le pongo, le rivendicazioni del passato dopo i mutamenti storici dovuti a guerre, dovuti a accordi eccetera, hanno una scadenza? Cioè vanno accettate o va rivendicato il passato? So che non c'è una risposta a questa domanda qua, ma la sua opinione, non c'è una risposta perché la sua opinione dipende dai contesti specifici, no? Quindi non c'è una regola. No, non c'è una regola. Pensi a una situazione in cui il confine si sposta e da una parte rimangono cospicue minoranze, no? Le rivendicazioni possono essere molto forti, però ancora una volta dipende dal contesto, come vengono trattate queste minoranze. Cambia molto se lo stato ospitante, diciamo, è uno stato liberale o uno stato autoritario, oppure se è uno stato nazionalista oppure uno stato che rispetta invece i diritti delle minoranze. È completamente diverso. Ancora diversa la situazione dei territori che un tempo facevano parte di un'area culturale di uno stato, dove sono stati perduti, ma la popolazione non c'è più. In questi casi le rivendicazioni normalmente si esauriscono, quindi non può esserci una regola, bisogna avere caso specifico per caso specifico. Sì, sì, no, questo è chiaro, cioè questa è, diciamo, un'osservazione delle varie realtà. Ma a un certo punto, voglio dire, bisogna mettersi il cuore in pace, oppure capisce cosa voglio dire? Cioè è un po' questa realtà qua, ma in realtà che si verifica in, non solo qui da noi, nel rapporto tra Italia ed Austria, oppure può essere Fiume che ha una radice italiana secolare, possono essere altri porti. Sì, ma la risposta è la stessa. Cioè la risposta è quella che guarda il presente, alle condizioni. Si accetta, a un certo punto bisogna accettare la realtà e andare avanti, punto e basta, oppure bisogna sempre guardare al passato. No. Allora, bisogna distinguere tra il rispetto per la memoria, che è una cosa secondo me assolutamente doverosa, e le scelte politiche del presente. Scelte politiche del presente l'hanno fatto tenendo presente certamente quello che c'è stato, ma in base alla realtà dell'avvenza, quelle che sono le convenienze delle popolazioni sul presente. Noi usciamo, chissà se usciamo per davvero, se siamo usciti per davvero, fino a alcuni anni fa avrei detto, noi siamo usciti da un lungo secolo di intolleranza, no? In cui questo tipo di questioni avevano normalmente una soluzione conflittuale. Qui qualcuno vinceva, qualcuno perdeva, e chi perdeva voleva la rivincita. E siamo entrati in un'altra fase, che nel nostro continente è tutta la fase di integrazione europea, quella invece del rispetto della pluralità, delle situazioni esistenti, nel senso che i confini tendevano poi a sparire, no? E quindi questi problemi si sdrammatizzavano anche dove in parte esistenti. Ricordava giustamente Andrea che forse questa visione era un po' ottimista, ecco. Per cui inopinatamente vediamo qualcosa che risorge, no? Qualche decina di chilometri di casa vedo dei nuovi fili spinati e con il confine fra Slovenia e Croazia, ad esempio, ci sono le barriere di spinato per bloccare i migranti, e quindi anche i gitani come noi che ormai avevano preso la ritusi bisogna dare spazio da una parte all'altra. Altre cose sul Brennero le sapete meglio di me, ecco, quindi non sono più tanto sicuro che quell'epoca sia effettivamente conclusa. Io spero di sì, perché l'unica soluzione è quella, l'unica soluzione è quella della smaterializzazione, del superamento dei confini e della gestione assieme delle università. Non posso dare una risposta di tutto diverso. Venendo a tempi più recenti, è vero che con l'indipendenza della Croazia il porto di Trieste, che era già in declino, è quasi definitivamente sparito dal punto di vista commerciale, perché Rijeka è un fiume. No, no, è contrario. È il porto di Fiume che è andato in crisi. Con l'indipendenza di Jugoslavia è andato in crisi il porto di Fiume, perché prima era massicciamente sostenuto dallo Stato, era l'unico, era il principale porto dell'Jugoslavia, adesso no, per cui ha avuto un crollo di traffici dal quale si sta riprendendo. Il porto di Trieste ha avuto anni estremamente bui, ma questo è un po' comune, porto adriatici, ma anche perché risentiva parecchio della concorrenza più di Capodistria che di Fiume. Questo fino a dati molto recenti. Anche in questo momento il porto di Capodistria ha risultati migliori di quello di Trieste. In anni recentissimi, per varie ragioni, non solo internazionali ma anche interni di cambio di gestione, diciamo, il porto di Trieste in ripresa. E adesso noi speriamo nella Cina. Lo so che c'è una grande polemica sulla via della seta, che mi sono assolutamente compreso. I triestini sono prontissimi a cominciare a mangiare e sparire il viso, evidentemente, no? Perché se ci comprano il volo ottavo, sono contenti, chiaramente. C'è una ripresa di traffici legati alla logistica internazionale, ormai tutti gli schemi del passato sono saltati, dipende dalle grandi imprese di logistica dove decidono di investire. Dove decidono di investire si portano 2-3 milioni di contenitori con loro, è una gara aperta. Bene, io vi ringrazio così per l'interesse, per la presenza fino a quest'ora tarda, ringrazio moltissimo la...